Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Quando la cocaina, anziché in circolo metabolico, va in fumo, sono felice come una Pasqua. Ebbene, pochi giorni fa 300 milioni di cocaina sono andati letteralmente in fumo nell'inceneritore di Pisa, con enormi misure di protezione e sicurezza. Pericolo maggiore in questi casi è rappresentato dalle mafie, sempre pronte a riappropriarsi dei carichi sequestrati. Si tratta della distruzione del più importante sequestro di cocaina effettuato in Italia, il quarto al mondo per quantità e valore della droga. Il quantitativo, una tonnellata, era stato sequestrato nel porto della Spezia ad agosto e pochi giorni fa dato alle fiamme, appunto. La droga si trovava dietro la paratia di un container all'interno del porto. Il carico era partito da Santo Domingo e dalla stessa Repubblica Dominicana godeva del nulla osta antidroga. La Spezia era solo una tappa del pellegrinaggio del carico milionario. Le fiamme gialle hanno seguito il tortuoso andirivieni dietro il quale si celavano i narcos colombiani che agivano tra Spagna e Germania. Al di là del sequestro fa paura il fatto che la droga sequestrata e poi distrutta fosse tagliata con levamisole, una sostanza utilizzata in ambito veterinario. Secondo uno studio dell'Università di Firenze, il levamisole non sarebbe semplicemente una sostanza da taglio, ma sarebbe uno stimolante con proprietà allucinogene. La partita in questione sarebbe stata pure al 65% e la tendenza al taglio con il levamisole è stata confermata anche da un rapporto del Dipartimento Antidroga americano, secondo il quale il 79% della cocaina confezionata negli Stati Uniti sarebbe tagliata proprio con il levamisole. Ce n'è abbastanza, credo, per interrogarsi sulla pericolosità delle droghe pesanti che, come la tecnologia, presentano sempre delle novità pronte a irretire l'uomo e ingrassare i già ricchi portafogli dei narcotrafficanti. Buona vita e a domani.